nessuno sulle 21 stasera. Non si è ancora affacciato nessuno, poi dei minuti fa è entrato, però era addirittura l'arrivo qua a Sassari, è chiuso il bulldozer. Ah, ho capito, Pietà. Mannaggia, potevo entrare prima, ma mi stavo srotolando la zappitella poco fa. Grossette, non fini, dico che con le fini rimangono ratti. Giuseppe. Ciao già, ben sentito. Questa rullatina mi sta dicendo Pierpaolo che è andata in bianco. Io l'ho proposta perché la verità ne avevo voglia. A me la di mangiare, no, non dico tante, ma un pezzettino, me l'assaggiate, invece lui mi ha detto, no, non faccio stasera perché ho mangiato già troppi dolci e meglio tenersi a regime. Meglio tenersi a regime, magari due pizzi. Ma è negativo. Abbiamo mangiato una pizza a testa, dove se la mangiate due? Anche lo serve mantenere in forma, anche se lui è giovane, mi ho già, se non ti si mantiene forza lui, guai. E poi lì, Antonio, non so se mi stai ascoltando adesso, domani è lunedì e stai appena iniziando la settimana lì, avanti scizzi, gatti, ci arriva la barba sino ai piedi, figurati se uno la si deve mettere in porta. Sì, io credo sì. Ma per lui è particolare, forse è meglio che sia fatta così perché è meglio che non ne mangiamo di zuccheri. Che tappa già, io non ho potuto resistere poco fa alla tentazione, mannaggia, perché stavo guardando un po' di televisione quando stavo aspettando due fette di salsiccia, mi ho mangiato un pezzettino di formaggio e due spalmattine di gorgonzola su un pezzettino di pane, devo essere sincero. E niente, ce l'avevo dietro, il contenitore non l'avevo visto. Poco fa come mi sono alzato per spegnere la televisione e accendere l'apparato, mi è proprio capitato davanti al muso. E niente, l'esagerata me l'ha sorpassa, dai. Hai fatto bene, tu per grazie a Dio non hai problemi, quindi ne puoi anche approfittare. Io dico questo lì, finché riusciamo a tirare avanti già e via. L'importante è che poi gli acciacchi non ne vengano fuori l'ultima una volta. No, dai, non essere pessimista. Ma per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro. Non è che sto pensando che il Cornetto ce l'abbiamo anche giù in mensa, in stabilimento. E magari. Immagini, ti presenti giù con un pezzo di scotto che è tutto unito, buio, e con lui arrotolata dentro. Ma noi le clienti ce le portano, quando le fanno ce le portano a assaggiare. Io quando vado nei negozi, specialmente di satellite, ce le portano di vari tipi, ci portano papassini, ci portano frittelle. Poi c'è un tipo che sta facendo un matto con una lanciata integrale che e fedi, si da quando si chiudi, tirati quanti un mano. Io stasera sono passato lì di fronte al porto, c'è scritto Sisa Tourist Market, poi c'è un portone dentro, ma cosa c'è lì, qualche cieco? Il portone a fianco? Cappa, ho visto c'è disegnato, adesso non mi ricordo, quella la tipa dei cartoni animati, se non mi ricordo male. Quello lì è un negozio tipo una cartolibreria, vende anche giocattoli, è sempre praticamente il nostro, poi l'abbiamo affittato. Infatti così, siccome c'era la fila, no? Lì proprio dall'ingresso del portatore c'era un casino nero, oggi poi siamo andati a incasinarci pure lì nella via centrale. E così no, visto che ero fermo in macchina, e niente, infatti c'era proprio Sisa Tourist Market e poi c'era quel portone lì aperto con questi disegni sul muro. Ti dico, fatti anche bene quei disegni. Capagava, chi è che sta facendo così male? Capito, e tu sì. Stai uscendo tutto quanto con i dischi, sicuramente la connessione è sbagliata. No, negativo, capito, non stai uscendo bene. Avanti Giuseppe. Sì, ma io ero del parere per quanto riguarda Gianni Capri 2. Magari Gianni, ti conviene adesso attaccare l'altro di apparato e magari poi domani a Montefresca lo fai quel lavoro lì, perché magari poi già c'è il trauma del bloccaggio dell'ascensore e tutte quelle storie lì e magari non sei concentrato bene. Poi andiamo da Pompolo, stasera ci facciamo un altro giro, tanto è ancora insaccata su quell'ascensore, non siamo riusciti a sbloccarla, manco la scarica. Capito, ha fatto peso, quindi è normale, si è fermato. Ma il fatto è che è salita più di quello che doveva salire, mi hai capito? È andato più su del piano. E poi lì ha preso una bella insaccata, mi hai capito? Infatti io non riuscivo a capire che cosa fosse successo, perché è stato proprio come un contraccolpo. E quanto eravate dentro? Allora, in quattro. Oh, strano. Probabilmente c'è qualcosa che funziona a trovare. Beh, sicuramente sì, perché poi, guarda, a me io ero pisciato dalle risate. E poi talmente eravamo incasinati che io avevo l'apparato che doveva prendere Capri 2 ancora in mano, una bomba pesante. E infatti ho detto, cazzo, ma io non sono sicuro, ti ho detto, già siamo incasinati a tenermi ancora questo peso in mano. Mica c'è la carina, va per te. Vati Capri 2. Comunque, ci sono molti oggi una bella giornata, ma dico voi, altro è fatto. Una settimana, se ne avesse fatto due o tre o quattro di settimane, avrebbe giocato a tutti. Per quanto riguarda l'acqua che ha fatto ieri notte, cazzo se l'ho sentita ogni bazzinata d'Eva. Il vento l'ho sentito perché dalla parte di dietro in canala parecchio, no? Cazzo dovevi sentire a finestre chiuse come fischiava fuori. Cazzo gli ho detto, sentendo a baio, ma qui c'è l'antenna mia. Domani è così con sa, ho visto che era appena appena nuvoloso, però senza pioggia. Però speriamo che con questo tempo, vabbè, già può capitare di tutto con questi fenomeni, poi sai anche lì in alta quota i venti cambiano e tutta quella storia lì. Ma speriamo che non rompa le balle più di tanto, perché adesso veramente basta. Vabbè, ce la prendiamo. Posso credere, cavolo, se non cade qualche bombola l'avrete fatta fuori mi da quando è cominciato l'inverno per fare. E poi il discorso che anche il vostro è pesante come lavoro, è inutile che anche vi case a girarci intorno, è pesante, poi sei, a parte il coso, il peso del materiale che portate, e poi anche nelle condizioni in cui si lavora, perché che sia piovendo, nevicando o grandinando, la consegna la devi fare. Di gas che avete consegnato. Insomma, qualcuno è. Puoi immaginare che il nostro deposito è fatto da 1.000 kg l'uno. Può tenere 1.000 kg l'uno, quindi c'è il carico ogni giorno, più il carico che facciamo da qua alla Sassa e da Mazzoni. E dalle bolle io so quanti chili sono. Quel deposito ci sono stato una volta, quello che c'è lì a Tana di Rumazzoni, e mi pare che lo teneva uno che, non so se ci abiti ancora lì a Latte Dolce, il figlio ha lavorato con me in officina. Mi pare si chiamasse quello, guarda che adesso il figlio è entrato, cioè adesso il figlio è in polizia. Il figlio è in polizia? Io sono stato lì perché, aiutami a dire, aveva le chiavi lui del deposito, no? E quando capitava andavamo anche a farci qualche macchina lì, lavori di meccanica. Ma tu sei parlando di Casu? Breco? Sì, registrato il Breco, sì, Casu. Il figlio, quello ha lavorato con me in officina, no? Adesso non mi ricordo il nome di Adriano, è capitato qualche volta che abbiamo fatto qualche lavoro lì in quel piazzale di quel deposito. Capo, ma mi sembra che non ci sia più neanche polizia. Anch'io ho sentito una cosa del genere, ma si arrangi, buon pro gli faccia, dai. Avanti il Breco. Breco, mi senti? Sono Carburo, ma non ho controllo per piacere. Vai con questo controllo, qui Giuseppe è tornato, cambio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Radio 5, segnale 9 più 20, chiarissimo. Bene, grazie. Chi c'è modulando? Vela 1, bombolo e doppio room, cambio. Benissimo, approfitto a salutare a tutti. Antonello non c'è per caso? No, Antonello ancora non l'ho sentito, cambio. Perfetto, saluto a tutti quanti, quelli che ci sono alla modulazione. Continua pure. Cappa, avanti per qua. Capri 2, no, io Mario lo ascolto bene perché sono, diciamo, sento qualcosa in sottofondo, ma è incomprensibile, Pierpa. No, ci vuole qualcuno che lo guidi meglio di me, se riesce a copiarlo. Guarda, io ti posso dire che stai arrivando con lo Santiago, ti senti una radio di uno? Yeah. dove si mette l'automotive, diciamo, a vedere l'acqua, allora in fondo, di fronte, c'era un bel riquadro e lì c'era il parcheggio, e mi sono fermato lì, ho provato a guardare, però non li ho visto, e poi sono andato via, giustamente, perché se non li vedo, non li vedo. Tutto qua, la sarà per la prossima, prossimo sabato. Oggi bisogna tenerci riposati perché domani si va in combattimento. E niente, gappa gappa. Gappa, perché veramente ci siamo sbagliati, allora c'è un appuntamento, perché io non l'avevo previsto che c'era una partita ieri, casino c'era per quello, no? Lì non ci siamo entrati in quella situazione, infatti era meglio se c'eravamo direttamente. Tutte quelle figlie me lo posso immaginare, tra circo e coso, le partite di basket è una cosa che non si crede. La Boi adesso ultimamente l'abbiamo presa in do a fare il tutto esaurito lì al coso, e su al, ma come si chiama, il palazzetto dello sport. Chiuso perché la fase è chiusa così, con le prime classifica si va alle partite per dire poi c'ero anch'io. È un'usanza così, anche quando la torre stava per salire in via, erano tutti qua a Torres. Adesso molto meno, ma quando c'era, stava per salire in via qualche anno fa, invece poi si è parata, dovevano vedere la cosa che c'era qua a Torres. Infatti ai tempi del rubato, quando la torre si è rischiato di salire in Serie B, c'era sempre il tutto esaurito. Quando ha avuto bisogno di essere sostenuta dal coso, dal pubblico, dai tifosi più che altro, non si faceva vedere nessuno. Addirittura mi ricordo che una volta avevano appeso anche i manifesti qui a Sassari per invogliare la gente a salire su allo stadio. Contenimento, come deve andare, e anche questo è cos'è. Cos'è che la Torre è tanti anni che gioca, tutti questi soldi che hanno sempre incassato, dove sono andati a finire, si hanno riempito le tasche loro, secondo me, e non hanno mai presentato un progetto per fare uno stadio nuovo, perché volendo le aree in comune per fare uno stadio nuovo le trova, perché ci sono tanti di quei terreni lì dietro abbandonati che va più che bene. Solamente che non avevano, uno non avevano intenzioni, e quelli che dirigevano la Torre non avevano manco per l'anticamera di dover incentivare per fare uno stadio nuovo. Tutto qua. Questo di un punto di vista, cui può darsi pure che mi sbaglio, tu hai ragione che passando in Serie B aumentavano i costi dell'iscrizione, aumentavano i costi dei giocatori, aumentava un pochettino tutto, però la gente sarebbe stata ben felice di andare alla Torre, anche di pagare 100 euro in più o 10 euro in più, però la gente sarebbe stata soddisfatta, invece di quella maniera erano lì, diciamo, passava uno scivolo ed erano passati i cilindri, e da qui invece lo fa la vedova a quella terra, tutto lì. Classifica. tappa di positivo, hai fatto una miglioria, guarda che adesso io sono senza cuffie e ti copio bene, capi tu. Anche se devo essere sincero, se riesci a avere un punto in più è meglio. Comunque hai fatto veramente un passo da gigante, Gianni. Perché ho collegato i mic al tuo apparato, ce l'ho qui dentro già, ho fatto il passo da gigante. Tu come mi ascolti Mario adesso? Adesso ti ascolto forte e chiaro. Allora, il segnale è sempre 7. La radio ti posso dare 4. Buona, bella, pulita. Ok, è già andata bene. Fermato, mi ascolti? Ah, poi positivo. Lascia tutto con il mezzo chiodo. Ho cambiato l'apparato, no, ora non si è data qualcosa questo. Perché me sono accorto io, mi sono trovato ad ascoltare. Questo può far troppo perché il costa perché c'è un po' di amplificazione, però sul carro del più 3 ci devo adattare lì. Va bene, capa, ma comunque questo è il migliore di tutti, dai. Ok, allora lasciamo questo l'apparecchietto. Ok, riprendete che io faccio un po' di pulizia qui sul tavolo che sembra che abbiamo fatto l'intervento chirurgico. Capa, riprendi Giuseppe. Sì, Pierpa, sì, ritornando al discorso di poco fa, lo spazio per farlo o per ampliarlo sia il palazzetto che lo stadio ce l'abbiamo, perché se tu prendi lo stadio, no, dove gioca la Torres, guarda, ce n'è terreno intorno per poterlo ampliare volendo, sia in lunghezza di cose, di curve che di tribune, quindi non è che dovrebbe affrontare nemmeno tutta questa grande spesa, è che come hai detto giustamente tu non me ne frega niente a nessuno, iniziando da quella testa di cazzo del sindaco che abbiamo e finendola con l'ultimo assessore che poggia il sedere in quelle poltrone, perché hanno dimostrato che della Torres non gliene può fregare di meno a nessuno. Sì, ecco lei la frega questo, te l'ho appena detto. Sembra che abbia fatto, il quel porchice di Nemicico sembra che abbia fatto la fine del mondo. È un sacco che ha danneggiato, non si sa che cosa neanche, quanto ha danneggiato, perché ha tutto, lei tra via Cavour, e poi non stanno arrivando merci, perché poi arrivare solo fino alle 10 del mattino e non si riescono le merci. E ha tolto, con la superficie ha tolto tra via Cavour, via Carlo Alberto e l'altra via, come si chiama, via Ricorcosta, in tutto ha tolto 200 parcheggi. E quindi 350 parcheggi che cosa le ha fatte a fare? Così, la bellezza. Hai perfettamente ragione, cioè il discorso che fai tu lo fa una piega per qua. Purtroppo ce l'hanno messo, guarda, e non lo so. Io ogni volta che lo vedo, guarda, mi vengono gli attacchi di coso, di mal di pancia, per non dire altro. Perché come persona, guarda, non ha niente, anzi, è jura edu, ma è jura edu me, case, perché come coso di politica, per carità, case, sora edu, case, dove hanno i buoni in chivi. E infatti lo dico quello, siccome io lo conosco da un bel po' di anni, non bastava il casino che faceva in quel pronto soccorso, si è messo a fare casino anche per la città, avesse saputo fare almeno tre quarti del suo mestiere, oddio, insomma, vabbè. Io ho avuto la disgrazia di conoscerlo da molti, molti anni, per via di quello che facevo prima e tutto quanto, però non so fare manco il suo mestiere, immaginiamoci quello lì. Ma poi quello è il casino pure, che c'era stata, mi ricordo anche una mezza rivoluzione lì di quei commercianti, case, perché lui lo dovrebbe toccare con mano e con tasca quello che hanno e che stanno passando quei commercianti lì, perché lo sbaglio più grande, guarda, è stato farsi imbambolare quando ci sono state le elezioni, casa, a votare che c'è un gagamudanda. Una piega al discorso tuo, Pierpa, perché l'emiciclo, guarda, dovevano lasciarlo così com'era, perché anche quando arrivavano i pullman, mi ricordo, lì lavoravano tutti, da quando hanno spostato i pullman hanno incominciato a fa casino e adesso case stanno continuando, anzi continuando l'agonia dell'emiciclo, Pierpa, perché adesso ci hanno messo questo cacchio di pullman lì in via 25 aprile. Ed è un casino perché sei già fuori mano. Invece lì quando arrivavano i pullman dall'Interland, arrivavano, la gente scendeva e per male eri già al centro di Sassari, qualcosa riuscivi a fare. Ah, Nebiliato Gazza ha levato un sagraccio in Chivi. Dai, Mario, riprenditela. Ma guarda che il 25 aprile i pullman ci mancano già quasi 2 anni. Li hanno messi dove c'è il tribunale, la corte d'appello, in quella via che esce verso Canega. I pullman sono tutti quanti lì, arrivano lì e partono da lì. Nel 25 aprile i pullman non ci sono più quasi 2 anni. Lo so, infatti lì adesso i pullman fermano anche, sì, lì per andare giù che ti porta la strada di Canega, ma hanno fatto anche le soste per l'arsti, i privati, le ferrovie complementari anche lì nella via che scende a fianco ai carabinieri. Sì, lì c'è sempre stato. Lì c'è sempre stato già da prima, anche quando erano in ciclo lì facevano tappa a fianco ai carabinieri, però adesso li hanno messi dietro il mercato all'ingrosso che c'era una volta lì, vicino dove hanno fatto il tribunale. Adesso sono tutti in quella via lì, più avanti, capito? E sono tutti quanti lì in pullman. Però è sempre un sabotto perché non c'è mezzo di tram, non c'è mezzo di quello, non c'è mezzo di niente, se ne devi scendere in un posto per poi andare all'altro. Hanno fatto il sabotto nero, invece prima uno, bene o male, arrivava alla stazione, c'era il 25 aprile, tirava il fumo e sortiva. Invece adesso niente, adesso è ancora più sabotto perché è lontano ed è anche fuori mano. Infatti sono andati a casa dalla pentola alla brace, figurati che organizzazione che c'è qui nel nostro consiglio, quando si mossa le tutti canti dei magnaci in Chibi a Palazzo Ducale, no, figurati le idee come ce le hanno chiare. Vela, no, le prendo io, che vela è un po' stanco di parlare. Ci sei anche tu, dottor Rum, buonasera, mi hai sentito? Io credevo che non ci... Ciao Mario, no, sono la chiave per Paolo. Ma è tutto inutile qua. Andavano spostati questi pullman, non hanno fatto un punto di ristoro, niente. Anche quando erano lì via 25 aprile, non c'era punto d'appoggio, c'era solo la biglietteria e basta. E questo grande spiazzo, poi la io ho visto in tante città di città, cavolo, che ci sono quelle sale d'aspetto, proprio una stazione per i pullman. Come c'è invece colore le basi, invece colore le basi c'era una bella sala dove c'erano le macchinette per potersi pigliare qualche bibita, c'era una bella sala d'aspetto, che era lì poi a fianco al bar, la sala d'aspetto dell'ARF. Invece adesso dove sono non c'è niente. Cioè è tutto così, ci hanno messo una cabina per fare i biglietti e basta. Infatti, Mario, questo dimostra la serietà dei nostri amministratori, no? Gli amministratori comunali, che ancora non hanno capito che quei pullman trasportano persone, non fanno trasporto bestiame. Scappa di positivo, poi M5, uno quando stava aspettando, anche se non voleva stare in sala di attesa, che c'era, perché mi ricordo c'era la biglietteria, la sala di attesa e poi c'era quella specie di stanzino dove pigliavano i pacchi per spedirli, che c'era pure il peso. Io sto parlando di tanti anni fa, però uno che non voleva stare in sala d'aspetto, c'aveva due bar, uno a destra e l'altro a sinistra, che tranquillamente potevano entrare, pigliarsi un caffè, una cosa, e aspettare anche lì. Invece adesso è tutto come che la gente non significhi niente, perché hanno messo quel gabbiotto per fare biglietti. Poi ci sono due cose per potersi mettere la gente, però tutti quanti non ci stanno, anche perché lì e partono tutti in pullman, la gente dove la metti? Chi deve andare a Castasardo, chi deve andare a Trentino, chi deve andare a Nuoro, chi deve andare a Olbia, chi deve andare dove deve andare, però quando si arrivano gli studenti che arrivano le cose, la gente dove la dovrebbero mettere? Mario, sai che cosa ti dice Giuseppe? Che nonostante tutto, e stiamo tornando indietro di 20 anni e più, perché io lì ci ho bazzicato anche quando ero ragazzino, e ritornando indietro nel tempo posso dire che prima, quando c'era la stazione di Pullman lì all'emiciclo, appartenevamo a un paese civilizzato, no? Cioè un paese che meno male dà comfort all'utenza, l'utenza che paga oltretutto. E poi, come hai detto giustamente tu, se non vuoi aspettare in sala d'aspetto, ti fai un giro al bar, c'erano anche dei negozi lì, se non mi ricordo male, anche di calzature, c'era anche Flauto lì all'angolo dell'emiciclo, e meno male lavoravano un po' tutti. Però siamo nel 2010 e mi pare che siamo ritornati indietro nel tempo, non apparteniamo più ai paesi civilizzati, perché è una vergogna, dopo tutti gli articoli che sono usciti sulla Nuova Sardegna, per quella povera gente che nella sotto con la pensilina non riesce a starci e prende sbalzinate d'acqua e di vento, non so quanto gli sia convenuto, mi è capito, spostarli lì, a lui ci avrei messo a culo nudo legato lì sotto quella pensilina un paio d'ore e fatto provare che cosa vuol dire. Pappagatto, c'è perfettamente ragione, guarda, come il parcheggio sotterraneo, sì, il parcheggio sotterraneo gli avrei fatti fare, perché a volte non c'è il rapporto di mettere un ago. Però avrei lasciato le strade al cimitero come erano prima, cioè che saliva il tram, che era servito dai servizi pubblici, che scendevano via Brigata Sassa, li salvavano lì via Carlo Alberto, mi sembra che sia quella lì. E insomma, il traffico circolava bene e andava quasi bene. E invece hanno dirottato il tram, hanno un po' tutto e hanno fatto un casotto nero, perché quello lì è creare come scompiglio nella città. E poi, come stava dicendo Giuseppe, che le merci non arrivano, perché se ci arrivano una volta non ci arrivano la seconda, perché lì c'è subito il vigilatorio, ha inviato una bella multa. Cioè, a che cosa me l'hai chiuso a fare? Almeno il traffico per il lavoro lo devi fare. Infatti, no, c'è il negozio della 3M Musica che sta piangendo, c'è l'altro di su che vendeva roba elettronica che adesso non mi ricordo come si chiama, che era quasi la guardia brigata sensori. Tutti i tanti bar che non lavorano più come prima, facevano prima, arrivava, si parcheggiava, faceva colazione, si pigliava una bibita, con la scusa anche di accompagnare i parenti al pullman, si pigliavano una cosa, si ristoravano, facevano, e quindi di poco a poco guadagnavano qualcosa. Oggi stanno facendo tutta la fame. E le bancarelle, grazie alla 33, tutti i quelli hanno chiuso. Solo quello, tanti caproni lì guardando e urlando sottovoce allo spascio e nessuno che si sia mosso, però questo è vero, io guarda, meno male ti ho detto, ci ho sempre balticato lì da quelle parti, ma io vedevo la gente che arrivava, scendeva dal pullman e prendeva tutti i tram che volevo. Dovevi andare all'ospedale, da lì ti prendevi il tram per dire ed eri arrivato. Dovevi andare su al centro di Sassari, qui salire a Lunesole, ma in qualsiasi posto avevi tutto quello che ti serviva. E mi ricordo, e ci stiamo dimenticando dei tassi, e i tassi che c'erano posteggiati lì, ve ne siete dimenticati? No, non ce ne siamo dimenticati, no. Eravamo quelli di fotografia a 33 tassi. Quindi avevi anche quella cosa, quel servizio lì, scendevi dal pullman, volevi la comodità di portarti sotto casa, avevi soldini per poterti permetterti anche il tassi, cavolo, poi vengano, ma era organizzato veramente bene. Ecco perché io ti dico, 20 anni fa era il fiore all'occhiello, siamo andati avanti di altri 20 anni, al posto di migliorare con tutto questo cavolo di progresso che c'è nell'aria, e siamo andati a cosa, proprio a finire nel ridicolo, dai, per non dire altro. Tutti quegli ambulanti che c'erano, io mi ricordo che avevo compagni di scuola che chi era di Giarre, chi era di Cossuile, chi era di Buonorro, andavano tutti a prendere il pullman al riciclo e io li accompagnavo, ci facevamo magari una capatina al bar a prendersi un caffè e poi loro partivano, ma quando eravamo lì magari giravamo per le bancarelle e uno si prendeva una cosa, uno si prendeva l'altra, anche le bancarelle vendevano lì, oltre i bar che facevano paniste, queste cose qua, tutti i negozi che c'erano, anche in quel 33 che vendeva un sacco di roba elettronica, baracchini, tutta questa roba qua, mi sa che ha chiuso. Ma c'era, infatti c'era anche quel negozio, sai che non ci ho fatto manco caso già se quello è ancora aperto? No, è chiuso. Ah, confermato che è chiuso, cazzo, quindi a un altro gli hanno dato un colpo di grazia, complimenti. E anche due bar mi pare che hanno chiuso. Lì i bar erano sempre pieni, io mi ricordo quando ci passavo, pieni all'inverosimile. E poi ritornando al discorso delle bancarelle, sai quante cassette musicali ho comprato lì? Perché allora c'erano così i CD e queste cose qui non esistevano nemmeno. C'era quella bancarella con le cassette musicali, loro si è fatto quello. E c'erano tanti, chi prendeva portafogli, c'era voi, c'era quello della Torres, uno che ha Tartaruga, che prendeva tutte le magliette della Torres, tutte queste cose qua, bandiere, come si chiama, quelle trombe che usano gli stadi, tutte queste cose qua. Che mi ricordi, cavolo, com'è bello ritornare indietro nel tempo e scoprire quanto stavamo bene prima. Tante volte è progresso invece che agevolato di rovina, perché quei negozietti di alimentari, tutte quelle lì, sono tutti molti lo stesso, quei negozietti piccoli dove sentivi proprio il profumo della mortadella quando entravi, faceva un piacere. Io mi ricordo che andavo a Pasqua, c'era la signora Franceschina lì dove c'è il bar Manuel adesso, c'era la signora Franceschina, dovevamo comprare 10 trementine da piccoli, mi dia 10 mentine, 10 lire. E infatti, c'erano anche quelle le macchinette per affettare i cosi, i salumi, quelle rosse a manovella. Mamma mia, guarda, sono le quelle che ogni giro di manovella era mezzetto che ingrassavi con quella mortadella bella, certe fette, case grandi quanto una ruota di macchina erano, e te lo riempiva proprio il panino, bella profumata, guarda che adesso sembra che stai mangiando plastica. E te li ricordi il caseificio dove vendeva la pasta extra, la pasta comune, poi ti davano con le cazzole, ti davano le fave, tutte queste cose qua, c'erano tutti i cassetti, li aprivano e c'era la pasta sfusa. Ma quella l'ho conosciuta anch'io. Prendevi la pasta sfusa, gli spaghetti, mettevano nel foglio di carta, due giri ed eri pronto per andare a casa. Anch'io lì c'erano anche quelle licorizie e quelle grandi, una lira l'una, con 10 lire, 10 licorizie alla grande. E noi avevamo sempre la professoressa Franceschina, mentine, giuggiole, insomma un poco di tutto. Troppo giovane, quanti anni hai? Per poi dice che tu sei troppo giovane per aver conosciuto queste cose. Beh, io guarda, avrei voluto fortuna per dire che non le ho conosciute. Le ho conosciute come se le ho conosciute. Le ho conosciute su in via Vittorio Alfieri, quando abitavamo su al monte, le ho conosciute quando si andava in paese su da nonna, perché io come terminavano le scuole quando ero ragazzino e me ne andavo a Giave da nonna, e c'era zio Vittorio che aveva il negozio di generi alimentari. Io ho conosciuto proprio quei cassettoni grandi, quelli che avevano il pezzo di vetro incassato per far vedere che tipo di pasta o di legumi c'erano, e lì c'erano proprio le cose, i contenitori in plastica, quelli col tappo grande in plastica colorato, una lira l'una. Io mi ricordo che con 10 lire mi portavo a casa 10 licorizie, quelle grandi a forma di ruota. Sì, è così. Ma tu di chi anno sei, Giuseppe? Io esattamente sono nato il 3-3-61. Sei 2 anni più piccolo di me. Quindi io penso di averla conosciuta la lira. Poi quando facevano la festa su a Giave, al coso di San Cosma e Damiano, e lì ti mettevi, quando riuscivo a procurarle, in tasca 500 lire e stavi tutta la sera comprando. Già me lo ricordo. Perché per poco ti dava 37 anni al massimo. Sì? Per poco ti dava 37 anni al massimo. No, e cavolo, 37, buono. Io guarda, compio 49 anni il 3 del prossimo mese. E vabbè, da. La parola di mostri comunque, in effetti. No, io ho 37 anni così. Lo senti a portata? No, già, non l'ho sentito, cosa mi ha detto? No, vedi, credo che avevo i 35, 36, 37 anni così. No, per paese è un pezzo che li ho doppiati quelli. Magari, Dio ti senta, guarda, se avessi avuto quell'età lì, ritornare a quell'età lì, tanti errori che ho fatto non li avrei fatti. Vabbè, allora mi sono sbagliato, che si è mantenuto bene, dai. Mi inchino alla vostra bontà, cavolo, grazie di cuore, ci mancherebbe altro. Comunque no, dai, del 61, io sono nato il 3-3-1961. Io mi ricordo da ragazzino, ti ripeto, quando terminavo le scuole, no, me ne salivo su in paese da nonna. Allora c'era il tipo che aveva la Peugeot, quel macchinotti, quelle station wagon, quella addirittura c'aveva il mangiadischi dentro, incassato nel cruscotto, e quello faceva i viaggi, portava la gente da lì a Sassari, sai, e tipo, cosa ti posso dire, come un tassista, dai, era, e lì passava a casa di mamma e mi sedevo lì, infatti e conoscevo anche i miei genitori, no? E quindi mi lasciava proprio dentro casa di nonna, mi portava sino alla porta e lì mi passavo un paio di mesi su a Giave, ma con una tranquillità, guarda, un paese che ho sempre amato, tranquillo, aria buona, cibi genuini e quanto c'è. E come li chiamavano gli abusivi un periodo? Bravo, gli abusivi quando ero andato a fare il servizio militare, la visita a Cagliari, quando si andava a Calamosca, era pieno di quelli. Io mi ricordo che ce n'era uno napoletano, si chiamava Gaetano Adamo, me lo ricordo ancora, che veniva a casa, ci prendeva, ci portava al mare, mia madre gli dava l'ora di venire a prenderci, era puntualissimo, veniva, ci prendeva, ci riportava a casa. Sì, io mi ricordo, si chiamava, adesso mi è venuto in mente, signor Giovanni, questo che faceva quel servizio lì da Giave, veniva sotto casa di mamma, mi prendeva, caricava tutta la roba che serviva, no? E per rimanere lì il periodo che dovevo rimanere, no? Mi portava sotto casa di nonna, proprio mi ci portava dentro casa, appoggiava la roba lì nell'ingresso, a casa di nonna, missione compiuta e via. Sì, io avevo un mio compagno di scuola, si chiama Vaunida, Egidio, di Giave, non so se tu lo conosci. A Vaunida io di Giave ne conosco che abitano dietro via Marras. Sarebbe come termina il Ponte Nuovo, no? Salendo su a Lune Sole, giri a sinistra e una di quelle traverse lì, e quelli sono Nida e sono proprio di Giave. Papà, no, ma questo mio compagno di scuola proprio viaggiava, abitava a Giave, abitava proprio lì. Ma questo qui per caso aveva anche delle due sorelle, che tu sappia? Non lo so, era bassottino con la barba. E allora è lui, perché lui è piccoletto, ma si erano trasferiti da Giave qui a Sassari, quando poi l'ho conosciuto io. Io ti parlo di... sarò stato alle medie, dai. No, che alle medie, le avevo già terminate io le scuole. Guarda, avrò avuto 17 anni, 16-17 anni, quando questi qua si sono trasferiti. Aveva un particolare, beveva molta birra e c'aveva la barba rossiccia, come ricadeva la birra aveva colorato la barba. No, ma era gente in gamba, ci aveva invitato anche al coso della pecora, la cosa delle pecore. Sì, ma guarda, io ti posso dire che io ogni tanto ci vado, anche se mia nonna non c'è più, la casa c'è sempre, anche se l'ha presa una mia zia che sarebbe la sorella di mamma, quella abita su in continente, no? E scendono così di tanto in tanto, più che altro d'estate, quando ho voglia di passare un pochino di tempo. Però io per i fatti miei, e quando c'è qualcosa, no? Mi siedo in macchina, moglie e figli, e ogni tanto salgo, c'è tantissima gente che ancora si ricorda di me, perché io quando passo lì vicino a casa di nonna mi fermo, do una controllatina così, anche se molto discreta, e c'è questo Gio Maria, quello da piccolino mi ha conosciuto, e nonostante tutto adesso pare che ha 80... mi pare che abbia 82 o 84 anni questo tipo qui. L'ultima volta che mi ha visto l'anno scorso, che sono salito per la festa di San Cosma e Damiano, mi ha riconosciuto. Non so cosa si dimentica, vai. Avanti Mario. Ehi, Gappa, andrà bene. Ma quel negozio dove rimaneva? Dove andate a comprare le elementine? Sulla destra? No, quello lì è un'altra. li ho conosciuti perché lì ci abitava mia zia e mi cugini là. Niente. Sì, assistenti, Gianni. E comunque noi andavamo di più la signora Franceschina, non so se te lo ricordi nel corso del cielo, dove c'è Bavarola dietro l'edicola lì. Andavamo lì, erano tre sorelle e un fratello, erano in tre. Al monte, no, via Vittorio Alfieri sarebbe la piazzetta che c'è di fronte a piazza Logulento, dai, grosso modo, si saliva su alla forestale, ma cosa tutto non portavamo a casa, iniziando dai funghi, agli asparagi, alle bietole, alle di tutto, vacci adesso a vedere che cosa porti. Adesso porti siringa modesa. E cappa di positivo. Ha cambiato il menù. Cos'è? Avanti. Da quanto ci manchi la via Alfieri? Allora, io ci manco esattamente, guarda, sono andato via da lì che ero in... allora ero in quarta elementare e poi sono andato in quinta. Quanti anni sono, grosso modo? E lo sei tu? Allora, sono... forse buoni buoni... Allora, vediamo un pochino. Sono... più di 30 anni comunque, dai. Ah, no, allora no, niente, credevo che era andato... anche se ero piccolino ero un belle peperino lì e ho conosciuto un sacco di gente anche se sai essendo piccolo però ero il classico ragazzino di strada amico, io a casa ci stavo poco e niente anche se poi per forza di cose uscivano a cercarmi. E ho conosciuto anche quelli che abitavano, ti ricordi le casette basse che c'erano di fronte alla piazzetta di via Vittorio Alfieri? Esatto, già me lo ricordo. E lì era venuta a abitare la famiglia di Maesini Messia, no? E io mi ricordo sempre, io aspettavo la sera perché meno male ci regolavamo col coso, no, della luce e ci sedevamo lì nell'angolo della piazzetta e aspettavamo che ritornasse il marito di questa qui e aveva una di quelle lambrette 125 e lei si preparava tutte le munizioni all'angolo della palatina, no? Vado a vedere certi cantoni da chilo e mezzo che si sistemava perché lui al posto di rientrare a casa quando uscivano e lo pagavano se ne andava a bere, allora c'erano i cosi, i vendiori, manco i circoli c'erano, ha fatto vedere certe mitragliate di cantoni che arrivavano addosso a quella moto e a quell'uomo. Vuol dire che è sicura che tu non eri Pierpa, su quello ci puoi dormire tranquillo, anche perché io mi ricordo quando ero ragazzino, d'estate, d'inverno, io non avevo mai conosciuto scarpe chiuse, e aveva sempre quei sandali che avevano quei due occhielli davanti, no? E ho visto che quando pioveva rientravo sempre con le calze asciutte a casa, ma problemi non ce ne siamo mai messi. Adesso hai la sciarpa e ti metti il cappuccio e ti poni i guanti e ti poni tutto questo che vuoi, che sei sempre più malato di prima. Però sicuramente anche l'aria malata è mi pierpa, a parte quello che mangiamo, però è anche l'aria malata. Adesso tu e Mario sicuramente avete mali più grandi di te. Comunque non lo so, qua a Sassari so che non si usa, ma da noi si usa a fare qualcosa, ma probabilmente visto la realtà avete sentito parlarne. Allora, si usava perlomeno da noi, no? Che quando bollivi il latte, nisci, noi gli diciamo, da noi si dice un pizzo, per il sassese di un pizzo noi lo stesso gli diciamo, no? Quello veniva tolto, veniva conservato, dopo tanti pizzati lì si metteva il dito di panna, era perché genuino, era grasso, come latte era anche grasso e sostanzioso. Adesso è talmente anacquato, ma perché tu credi veramente che su 100 litri di latte che portano siano 100 litri effettivi di latte? Che saranno 70 di latte, 80 di latte, dai, voglio esagerare, e 20 d'acqua, perché già lo sanno loro come allungarle le cose. Ma perché? Ma a voi ne sentite gusto in questo latte? Se uno se non si fa proprio il cappellate adesso, mette la classica chicchera la mattina di coso, mette il latte, poi mette il caffè, sembra che stia bevendo caffè, perché tu l'altro sapore non le senti, perlomeno. Io non le sento. Vabbè, io sono parecchi anni che non le sento perché non le posso più mangiare ormai da una ventina d'anni a questa parte. Ma comunque lo sento che non è più il suo il latte di una volta, lo vedo pure. E comunque, ci sono un sacco di cambiamenti, ormai viene fatto tutto, quindi vi volemo che poi anche il latte che produce la pecora adesso in se stesso, insomma, tra mangi e cosa, non si sa come cosa sanno più molti alla connessa della mammella della pecora o della vacca. Stavo dicendo una cosa male, quindi Mario, te la ricordi, la vacca lui ce l'hai anche mangiata, ti piace? Ma ai tempi che ero piccolo io, che mia nonna faceva le spianate in casa, quando le conservava, sino che rimanevano morbide e belle, le mangiavamo. Quando iniziavano a essere appena asciutte, cosa faceva mia nonna? Le pigliava e le metteva al sole e le faceva seccare. Poi quando erano belle secche, per non mettere la muffa, quando erano belle secche, le pigliava e le tagliava a pezzi e le cucinava tipo ravioli e le gondia pure una matavrisa. Buona Liduina, ed era urbani, perché in quei tempi lì non era tutti i giorni che potevi fare il ravioli, perché mia nonna la pasta la faceva in casa, sino che ci avevamo i forni vicino. Noi quando abbiamo sfasciato i forni andava un po' carino da Rudocano, però poi gli è passata tutta la fantasia e non ne faceva più. Se no mia nonna sino a quello che posso dire, una trentina d'anni fa facevo il pane in casa, poi sono spariti tutti quanti i forni, è sparito un po' il tutto e non ne facevo più, ma mia nonna faceva tutto, quello, faceva i casalini, faceva i babassini, faceva tutto, tutto quello che si poteva fare faceva, andava in campagna, qui a Rugaso, quello selvatico, lo sbucciava, lo faceva e lo faceva sott'olio. Mia nonna faceva tutte quante le provviste, i pomodori secchi, mia nonna faceva tutto quanto, guarda, a voi le immagino bagnato, e poi sono anche più grande di te, comunque, vela. Poi rimanevano lassù e da lì si facevano come giovane di pane d'olio, un pane d'olio. che in quegli anni lì se la potevano mangiare, perché in quegli anni di là, cioè sugli erano molto buchi. E niente, poi c'era mia nonna che lavorava in una fattoria a Porto Torres a fare mangiare agli operai. E così che diciamo che nella mia infanzia sì, ho mangiato le spianate fatte tipo ravioli, però mangiavo pure i ravioli fatti da mia nonna, gli spaghetti, le barrette, perché nonna, ti ripeto, faceva di tutto a casa, perché lui veniva il venerdì sera a casa e iniziava a prepararsi la madriga per fare un pane il sabato. Il sabato poi chi era fatto il pane andavamo al forno, e il forno ti dico pure dove era. Hai visto lo sventramento dove mi hanno buttato giù tutte quante quelle case per scendere dalla chiesa di Sant'Apollinare, che adesso c'è quel muraglione e a fianco ci sono gli scalini. Prima il forno a legna era lì e noi andavamo lì a cucinare il pane. E così che sino a quando è rimasto in piedi, il nonno lo faceva lì il pane, portava le papassine a fare, le formagelle, portavamo sempre tutto fatto lì. Poi quando ne hanno buttato quello lì, andavamo o al Toscano, o la signora Lucia Russo, o in via La Marmola al panificio, c'era Dore Rabazzoni che era fornaio, e ce ne facevamo cucinare sia il pane che i dolci. Poi quando non è venuto più, perché ogni volta dovevi disturbare a Dore Rabazzoni, non c'è più andata, però fino a 30 anni fa mia nonna faceva tutto quanto a casa e cucinava sempre nel forno. E poi poverina ha smesso, anche perché era avanti con gli anni e non va via più che da pazienza, che va via che era più giovane. Io riprendo, ho dato uno sguardo all'orologio e siamo già in zona Cesarini e mi sa che Giuseppino se ne va nel lettino e vi saluta con il salutino, mi sa proprio che siamo arrivati. Pierpaolo, Antonio, Gianni e Mario, la più cordiale buonanotte. È un buon inizio di giornata per domani, dai, un buon inizio di settimana e buon lavoro. Ci sentiamo sicuramente alle prossime, dai, buonanotte a tutti. Papà Giuseppe, buonanotte, buon lavoro per domani, ce ne ascoltiamo le prossime, dai. Avanti, Mario. Ciao Giuseppe, buonanotte, buon tutto. Buon inizio di settimana per domani, là. Ce la risaltiamo, poi se coincide, se si presta, se ci sentiamo in radio, se no ciccia. Ciao Giuseppe, ci sentiamo, buonanotte anche a te, buon inizio di settimana, là. Ci sentiamo. Avanti Marco. A Pagappa, tutti altri tempi erano, e non vengono più a Cipicchia. Dai, interessante averli vissuti e ricordarseli. Ci sono ragazzi di adesso che non li hanno manco conosciuti quei tempi. Sì, non sanno manco cosa si hanno perso, perché noi, vabbè, allora era diverso. Noi i giochi ce li inventavamo, facevamo, diciamo che con poco ci accontentavamo. Oggi c'hanno tante cose e non si accontentano e non sanno neanche apprezzare il sacrificio dei genitori molte volte, perché vogliono tutto subito e non apprezzano quello che gli fai. Sembra che siano incontentabili. Ciao ragazzi, ma ti la metti quasi giocava con i tappi pestati. Con i tappi pestati, con i pallucci, con le figurine, poi man mano che si cresceva si giocava con i soldini, con le cinque lire si giocava a mamma, non so se tu ci hai mai giocato. ma si metteva un pochettino di terrino e si mettevano le 5 lire in piedi. Chi ne la buttava si raccoglieva tutti i soldini. Pensare male, a vero, cioè malignità non cucinella in quei periodi, lo facevi principalmente, quello là era maligno, avere il vecchietto, avere il cittadino suo. Io mi sentivo, non attendo che mi lo... Ciappagliata, allora andavi un lì, la casetta secca, e allora per fare dolci mia nonna mi mandava anche lì a comprare la farina delle castagne. Pagava. Mario, ti saluto, io sono arrivato a casa, portavo adesso, riprende lui magari, che sta scendendo a casa sua. Là. Ci sentiamo, buona notte, buon inizio settimana. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, tutta la prossima, buonanotte e buon inizio di settimana anche a te. Per domani ci sentiamo alle prossime, ciao ciao.